Cantine di Franciacorta. Bentrovati, una nuova tappa, questa volta a Cazzago San Martino, ospiti della cantina Vigna Dorata, azienda a conduzione familiare, attività iniziata negli anni 30 da nonno Fausto, proseguita oggi dalla signora Luciana e dal marito Vigilio. I 7 ettari di vigne per circa 50.000 bottiglie l'anno sono su una collina in lieve pendenza, rivolta a sud. Il fiore all'occhiello di Vigna Dorata è il Saten. Sentiamo il signor Vigilio. Dal mio punto di vista, quando mi hanno proposto il prodotto Saten, con le caratteristiche che aveva il Saten, pressione più bassa, zuccheri, ho detto questo è un prodotto che nel futuro per forza deve andare. E infatti l'azienda Vigna Dorata ha puntato sul Saten e sta dimostrando che il numero uno per loro è il nostro Saten. Alla prossima tappa! Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.